E allora, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, come vi abbiamo annunciato, adesso faremo un approfondimento sulla situazione greca, parlando degli ultimi avvenimenti. E ne parleremo insieme al compagno che spesso ci dà il suo contributo da Atene. Ciao Tasso, pronto? Ciao, buongiorno a tutti. Senti, allora, volevamo cominciare con riassumere un po' le notizie che abbiamo, diciamo, potuto raccogliere qui dall'Italia. Diciamo che una delle cose ovviamente più rilevanti è questo suicidio di questo pensionato che, diciamo, mercoledì scorso, se non sbaglio, si è ucciso a Piazza Sintagma sparandosi un colpo di pistola in testa. C'è stato già il funerale, ci sono state anche manifestazioni, scontri. Adesso, prima un po' di poi entrare nel merito specifico, perché quest'uomo era una persona, a quello che ci risulta, molto dentro al movimento di opposizione in Grecia. Partecipava attivamente a tutte le manifestazioni, all'assemblea del suo quartiere, quindi ha destato, diciamo, un sacco di emozione all'interno della società greca. Ci sono state manifestazioni, c'è stato questo funerale a cui hanno partecipato migliaia di persone. E se ci vuoi dire un po' appunto qual è il clima ad Atene, in Grecia, un po' rispetto a questo episodio. Come hai detto anche te, era una persona molto conosciuta, era una persona che ha lavorato ultimamente anche nel Puoi parlare un settore pochino più delle. forte, scusa? Sì, provo. Sì, va Era bene. una persona molto conosciuta nel movimento della sinistra greca e il suo suicidio ha lasciato in bocca amara tantissime persone. Subito la stessa sera migliaia di persone sono corse nel punto dove lui si è suicidato e hanno pubblicato praticamente la lettera che lui ha lasciato, che è stata una lettera politica la quale ha scosso molte coscienze. La stessa sera sono stati i primi scontri a Piazza Sintagma, dove lui si è suicidato. Il giorno dopo lo stesso, la gente è corsa al punto dove lui si è sparato e ci sono stati di nuovo scontri con la polizia. Abbiamo visto per l'ennesima volta la brutale forza che usano i poliziotti contro i manifestanti. Hanno ferito in testa, il quale è stato anche praticamente operato, il capo dei fotoreporter greci e il segretario dei fotoreporter greci, e è scoppiato un casino della miseria all'interno dei giornali e delle TV a proposito di questo brutale ferimento del loro lavoratore. È uscito il ministro della sicurezza greca, il quale ha detto che ci sarà un EVE all'interno della polizia, però queste cose vanno alle lunghe e non si riesce mai a un risultato positivo. E sabato è stato il funerale di questo compagno, c'erano migliaia di persone al primo cimitero di Atene. È stata una cerimonia politica e poi l'hanno spostato in Bulgaria per essere bruciato. C'è stato hanno letto un comunicato di Theodorakis e poi ha parlato sia la figlia, la quale ha scosso veramente le coscienze perché ha parlato con molto affetto per suo padre, ma anche con molta, praticamente riportando le sue parole contro i politici e la situazione greca. E poi c'è stata una manifestazione dal primo cimitero fino a Sindama, dove i giovani hanno beccato un poliziotto, l'hanno spogliato, l'hanno picchiato e poi hanno bruciato praticamente simbolicamente all'albero dove lui si è suicidato, hanno bruciato la sua uniforme. Senti Tasso, questo episodio di violenza brutale da parte della polizia, in particolare contro i giornalisti, non è un'eccezione, cioè già nelle manifestazioni dei mesi scorsi ci sono state aggressioni molto violente, mi ricordo in particolare a una giornalista, aggressione che è stata anche ripresa in un video. Sì, infatti era la prima sera della manifestazione che hanno fatto i giovani al punto dove il pensionato è stato suicidato. Quella sera lì hanno picchiato questa giornalista e la sera dopo hanno ferito gravemente in testa il segretario dei fotoreporter. Fra l'altro colpendolo alle spalle, da quello che abbiamo capito da qui, quindi assolutamente in modo totalmente gratuito. Scusami, non ho così. No, a quello che sappiamo è stato colpito alle spalle. Sì, è stato alle spalle, sulla testa con il manganello, con la parte interiore, dietro del manganello che è di metallo, cioè da dove lo tengono, è stato operato in testa con un emato, ma fortunatamente sta bene. Oh, bene. Senti, quindi diciamo che qui, a parte questo episodio, diciamo non arrivano molte notizie, sappiamo soltanto dello sciopero confermato dei lavoratori marittimi, per esempio. Ci puoi dire qualche cosa su questo sciopero di sì, 48 oggi ore? Oggi e domani tutte le navi sono legate nei porti e non ci sono trasporti, non c'è niente. E le motivazioni di questo sciopero? Le motivazioni di questo sciopero è che i governanti tagliano i soldi sulla sanità, tagliano i soldi sulle pensioni e vogliono praticamente avere il NAT, che è praticamente è l'INAM dei lavoratori delle navi, e lo vogliono far entrare in una cassa di sanità, praticamente inglobare in una cassa di sanità un pochettino più grande, e questi, anche perché hanno fregato i soldi in tutte le casse di sanità, no? Con questo PSI praticamente tutti quelli che erano assicurati nelle associazioni di marinai, dei ingegneri, dei medici, eccetera, eccetera, i quali avevano le casse con tanti soldi, il ministro, ex ministro della destra, aveva ordinato che tutti quei soldi andavano alla Banca Nazionale Greca. La Banca Nazionale Greca ha usato questi soldi per comprare i bot del governo greco. Con PSI questi soldi sono diminuiti di gran lunga, praticamente io non so quello che è successo nell'associazione dei ingegneri, da 4 miliardi qualcosa sono rimasti meno della metà. Sì, fra l'altro una delle cose che era, diciamo, che si sa rispetto a Dimitris Christoulas, questo è il nome del compagno che è stato suicidato, come dici tu giustamente, a Piazza Sintagma, diceva che la sua pensione era stata ridotta dopo che per 35 anni, lui era un ex farmacista che aveva cessato l'attività, aveva venduto la farmacia e quindi poi era in pensione, e quindi questa pensione anche a lui era stata ridotta e lui non era più in condizioni, diciamo, nemmeno di sopravvivere. In questo momento tutte le pensioni sono state diminuite, le tasse sulla casa sono aumentate dappertutto, cioè prendono i soldi dappertutto, tramite anche l'elettricità, una cosa allucinante, perché ti lasciano restare senza luce in casa se non paghi la tassa per la casa. E di conseguenza tutte queste persone anziane che riuscivano a vivere dignitosamente, in questo momento non ho la possibilità di pagare tutte queste tasse, e così arriviamo al punto di Christoulas o di tante altre persone che sono suicidate. Vi ricordo che negli ultimi 2 anni sono suicidate più di 1800 persone in Grecia, perché non ce la fanno più a vivere con la pensione? Sì, c'è stato un aumento negli ultimi 2 anni del 40% dei suicidi in Grecia, che era un paese che era molto molto al di sotto in questa amara, diciamo, statistica all'interno della stessa Europa. E certo, perché noi abbiamo un clima diverso, non serve tanto, cioè abbiamo il sole, il mare, l'ambiente, eccetera, eccetera, così la gente si sfoga un pochettino facendo le passeggiate e così via, anche a un'altra mentalità. Invece la gente della Svezia o dell'Europa del Nord, che hanno altri problemi, hanno un numero di gente che si suicida molto più alto della Grecia. Senti, fra l'altro saprai forse che c'è stato un documento dell'UNICEF, la struttura ONU che si occupa dei bambini, che diversi giorni fa, questa cosa poi è stata ripresa solo ultimamente in Italia con un certo ritardo, e questo documento parla di una cifra impressionante di bambini, di minori che vivono sotto il livello di povertà. 400 sì. E rotti bambini su una popolazione di 11 milioni, cioè una cifra enorme. Sì, è una cosa che avevano, che loro, che i nostri governanti non volevano ammettere, che però era uscita fuori già dall'anno scorso, che erano gli insegnanti delle scuole d'obbligo che chiedevano di poter offrire da mangiare ai bambini nella scuola, perché si capiva che c'erano tanti bambini che andavano a scuola senza aver fatto colazione. Ciao Tasso, sono Giorgio, ciao. Ciao Giorgio. Senti, passando alla situazione politica generale, che cosa, qui le poche notizie che arrivano parlano della possibilità di un'altra manovra economica, e nel frattempo però sembra che i partiti abbiano votato in Parlamento pochi giorni fa l'aumento del loro finanziamento, è così? Sì, l'altro ieri hanno votato, ieri hanno votato in principio per il sostenimento che hanno i partiti tramite le banche per il loro mantenimento praticamente. Ecco, hanno votato. L'hanno votato, ma nel frattempo si parla di un'altra manovra economica fra poco? Sì, si parla di una manovra, sì, l'ha detto Lagarde, la capa del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, qua in Grecia di queste cose comunque non si parlano, anche se avremo le elezioni fra un mese, praticamente loro hanno deviato la discussione dai problemi seri che esistono in Grecia, come il milione passa di disoccupati, la sanità che non funziona, la pubblica istruzione che non funziona, l'hanno trasferita ai lavoratori stranieri che vivono in Grecia, i quali sono clandestini secondo loro, e sono persone che vengono dal Pakistan o soprattutto dall'Afghanistan, i quali nel loro paese hanno problemi di guerra, eccetera, e arrivano in Grecia come clandestini, e sti qua hanno trasferito il discorso sul loro internamento in campi che stanno organizzando in varie parti della Grecia. Quindi stanno costruendo nuovi campi di internamento per gli extracomunitari, diciamo così, insomma, questi che vengono dall'estero. È una cosa tremenda, non, cioè io penso che non esiste persona che che vive in una società democratica, cosiddetta democratica in Europa, che non si riferisce a queste cose ricordando nella mente quello che è successo in Germania tanti anni fa. Quindi campi di concentramento veri e propri. Senti, ma su questo... Secondo me sono campi di concentramento veri e propri. Mi ricordo 2 anni fa che avevano fatto dei campi per raccoglimento di queste persone che entravano nella frontiera dalla Turchia in Grecia, e queste persone, dopo che stavano là dentro, bruciavano i loro letti, tiravano i loro lenzuola sulle finestre dove c'erano scritto libertà, libertà e così via, e sono queste scene qua che ci fanno pensare che sono capi di concentramenti veri e propri, e vogliono aprire 30 all'interno della Grecia per spostare la migliaia di persone che tutti i giorni beccano nel centro di Atene facendo la polizia, facendo le retate della polizia praticamente. Senti, su questo argomento specifico e in previsione delle elezioni, sembra di capire che la destra, quella proprio razzista, nazista, stia cavalcando il problema, insomma sfruttando il problema per raccogliere consensi. Tu pensi che questo sia possibile, cioè che per esempio alle elezioni, se si presentano questi partiti nazisti, raccolgano un certo numero di voti? Penso di sì, cioè le proiezioni di voto mostrano che il Chrysi Avgi, cioè che il gruppo nazista che esiste in Grecia, è un gruppo di minoranza, eccetera, di propri e veri nazisti che girano nelle varie zone di Atene dove ci sono gli stranieri, che accoltellano la gente e che picchiano la gente senza nessun motivo. Cioè cammina una famiglia, un signore con la sua moglie sulla marciapiede e loro gli saltano adesso e li fracassano di botte. Queste persone qua, nazisti, entreranno nel Parlamento con un 3,2%, usando ovviamente questa parola della xenofobia, che ci portano via il nostro lavoro, che portano delle malattie, anche se il Ministero della Sanità greco ha detto che non è vero, cioè che le malattie sono malattie che hanno i greci e non sono le malattie che portano gli stranieri. Però usando queste fobie riescono a prendere i voti dei piccolo borghesi. Senti, questo atteggiamento dei nazisti che operano, io penso insomma soprattutto nei grandi centri urbani, si scontra con la resistenza dei compagni nel territorio, cioè ci sono momenti di confronto tra questi con i nazisti, appunto, cioè c'è una resistenza da parte del movimento verso questi? C'è, in tutte le zone di Atene dove si presentano i nazisti si creano spontanee manifestazioni della gente, li prende con calci e pugni, però loro vanno organizzati, sono proprio militarmente organizzati, portano dei bastoni che picchiano, hanno i coltelli e praticamente si presentano in varie zone di Atene, tutti organizzati, si spostano da una zona all'altra in momenti che la gente non li aspetta, gridano dei slogan contro gli stranieri e la Grecia praticamente che la Grecia è proprietà dei greci e non dei stranieri, fuori gli stranieri dalla Grecia e tutte queste balle qua, e così praticamente cercano di prendere dei voti in zone dove i proletari sono praticamente in questo momento senza lavoro e senza la possibilità di avere una casa, e si vede chiaramente che tanta gente va a dormire nelle case che offre il comune e va a mangiare nei pranzi che dà il comune. Certo. Senti, un'altra domanda. Povertà in Grecia è una nuova povertà che fa spavento, ragazzi. Ecco, su queste tematiche che sono poi quelle più importanti, insomma, no? La destra cerca di non prenderle in considerazione e strumentalmente usa il problema degli extracomunitari, ma la sinistra complessivamente come si comporta? La sinistra è una cosa che ferisce, Giorgio, ferisce tantissimo tutti quelli della sinistra che hanno creduto, che hanno lottato per una società nuova, e in questo momento vede la sinistra che non si unisce, vede la sinistra che aumenta di voti e aumenta delle percentuali, però non, unendosi avrebbe la possibilità di cavalcare il 45 e il 50%. Cioè praticamente adesso i vari partiti di sinistra, parlamentari e extraparlamentari, praticamente riescono a prendere, come danno le proiezioni di voto, no? riescono a prendere un 35%, no? Questo senza il PASOK. Ovviamente avrebbero superato anche il 50%. Solo che non si capisce perché non hanno un discorso, non fanno un discorso comune, non hanno una linea politica comune e di conseguenza ognuno prende la sua strada. Pensa che Cipra, il presidente del partito di sinistra, quello del Siriza, ha proposto di avere di presentare un rappresentante comune almeno alle regioni dove viene solamente uno eletto, no? E sia il Partito Comunista Greco sia il gruppo che si è formato Kuvelis, che è uscito da Siriza, hanno risposto di no. C'è una cosa allucinante, non si capisce perché non vogliono governare. Aleca Paparisa ha detto chiaramente che noi non vogliamo governare in un paese con tutti questi problemi, cioè sono cose che non si capiscono. Soprattutto i giovani non riescono a capire perché la sinistra si comporta in questo modo e non sanno neanche cosa votare. Beh, probabilmente non andranno a votare, io penso, non so tu come la vedi, ma penso che ci sarà un grosso astensionismo probabilmente. Ma io non lo so, perché fino adesso c'erano in tanti che dicevano che non sarebbero andati a votare, però in questo momento che niente funziona in Grecia, è ovvio che verrà un altro mnemonio il quale porterà delle misure drastiche contro la sanità, sulla sanità, sulle pensioni, sulla pubblica istruzione, su tutte queste cose qua. La gente vorrebbe andare a votare, però si chiedono tutti chi voto. Se la sinistra non prende una posizione precisa, se la sinistra non si unisce, tutti i giovani dicono ma per chi vado a votare? Senti, invece dal punto di vista delle assemblee di quartiere, di tutte quelle forme di organizzazione, diciamo, autonome, un po' fuori anche dai partiti, che sono trasversali, continuano questo tipo di forme di organizzazione in Grecia, in Atene in particolare? Sì. In tutte le zone di Atene praticamente, e non soltanto ad Atene, si formano gruppi prendono per esempio una cosa contro la tassa sulla casa tramite l'elettricità e si raggruppano persone di varie ideologie politiche, cioè vedrai a fianco gente di sinistra, gente comunista, gente anarchica.